Questa è l'ultima canzone e poi vi auguriamo buonanotte. Questa è la storia, è una nina nana sporca, è la storia di Tony Boy. Questa è la storia di uno di voi che si chiamava Tony Boy. Lui disse il sonno, io dissi boy. Il sonno è bello con le scarpe Bull Boy. Ma Tony Boy ora in Andalusia, ho perso tempo sulla ferrovia, ho obliterato il biglietto sbagliato e si è trovato innamorato. Tony, Tony, Tony Boy, Tony, Tony, Tony Boy. Della donna di Roy e adesso sono tutti cazzi tuoi. Tony, lo sai che la moglie e vuoi vengono sempre dai paesi tuoi. Tony, Tony, Tony Boy, Tony, perché non sei uno di noi? Tony, Tony Boy, Tony, perché non sei uno di noi? Tony, Tony, Tony Boy, sai che ti dico, tu mi annoi, è innamorarti delle donne dei buoi. Non c'hai il senno di poi.